Vorrei conoscerti quando è mattina, dirti la sera ti prego spegni la luce. Vorrei svegliare con te il mio vicino per il casino e non dargli mai pace. Ma non è facile, neanche difficile, forse impossibile, sicuro instabile. Vorrei lasciare sul tuo comodino un caffè caldo per ogni mattina, vedere che ti svegli d'improvviso, poi chiudi gli occhi e fingi di dormire. Non è facile, neanche difficile, forse impossibile, sicuro instabile. Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena, che quando parli non ti guarda e non pone il problema. Ed io che invece vorrei solo averti più vicino, cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino, che sono grandi come i dubbi che mi fanno male, ma sono belli come il sole dopo un temporale. Poi ti penserò, e poi ti penserò, e poi ti perderò, e poi ti perderò. Oh, oh, oh. Na na na na na na na na. Oh, oh, oh. Na na na na na na na na. Vorrei spiegarti che fuggire non serve, se nessun posto abbastanza lontano, se nessun posto abbastanza lontano da te. Vorrei parlarti ma non riesco mai a farlo, rovinare tutto quello che è stato, che a volte le parole sono un inganno, sono i rimorsi di chi se n'è andato. E non è facile, neanche difficile, forse impossibile, sicuro e stabile. Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena, che quando parli non ti guarda e non pone il problema. Ed io che invece vorrei solo averti più vicino, cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino, che sono grandi come i dubbi che mi fanno male, ma sono belli come il sole dopo un temporale. Poi ti penserò, e poi ti penserò, e poi ti penserò.